Hai le mani, comincia a gesticolare come sai tu. Dammi forme geometrico astratte, ma non parlare mai più. Thank you.